molto più carine troverà. Puntata numero 7 di Firenze in vacanza, vizi e virtù dei fiorentini in ferie, perché Radio Big World non lascia i fiorentini neanche per le vacanze, e non lo fa per una ragione molto semplice, e cioè che a noi altri campagnoli che ora ci ritocca di ritornare a Firenze, di pendolare verso Firenze, insomma, visto che a Firenze ci prendono a pesce in faccia, se noi sappiamo due o tre cose, due o tre elementi di conversazione che ci permettono di fare bella figura coi fiorentini, tanto di guadagnato. Ma io di vacanze ne so ben poco, avevo l'orto da curare, non è che sono andato al mare, e se no chi annaffiava i pomodori? Dall'altra parte non sono fiorentino, vivo sulle colline e neanche in provincia di Firenze, pertanto una fiorentina è la nostra santa protettrice e anche quella, insomma, mettiamola così, la nostra spifferatrice di segreti fiorentini, che è Laura. Buonasera, buonasera a tutti. Laura, oggi parlando di vacanze, parlando di fiorentini in vacanza, veniamo a un argomento scottante, cioè l'andare in vacanza in un'altra città che non è Firenze, ovviamente, perché magari c'è qualcuno che parte da il Ponte all'Indiano e si fa a fare le ferie a Novoli, ma insomma andare a visitare una città, e spesso, insomma, diciamolo, città più grandi di Firenze. Firenze è grandissima in Toscana, ma insomma in Italia, e non parliamo all'estero, trova città ben più popolose. Insomma, quando il fiorentino è in una città altra, gli viene da fare paragoni? Sì, sicuramente, sicuramente. A parte, cioè, dal Ponte all'Indiano a Novoli non si va neanche in vacanza, perché sono praticamente attaccati, quindi studiate un po' la struttura di Firenze. Via Bolognese, via Senese, già, via Retiro. Già da via Bolognese a via Senese, insomma, sarebbe più un viaggione. Soprattutto se devi attraversare strade rovinate dalla tranvia. Vabbè, aperta e chiusa parentesi. Allora, le città d'arte, certo che le visita al Fiorino, perché no? Sono quasi tutte generalmente più grandi di Firenze, se parliamo delle classiche mete europee, Londra, Barcellona, Parigi. Quindi Amsterdam non è grandissima, ma insomma. Allora, qual è la prima osservazione che viene da fare? Ovviamente, certo, insomma, da noi il centro lo giri in un giorno, qui, mamma mia, cartina alla mano e via pedalare, se vuoi fare il turista, quello insomma che vede il più possibile. Però poi cosa dice il fiorentino? Insomma, che Firenze è meglio, chiaro, chiaro, chiaro, non è paragonabile, ma si lamenta di Firenze rispetto a queste città per quanto riguarda sicuramente i mezzi di trasporto, perché le città d'arte europee che si visitano sono sì enormi, ma le varie zone sono raggiungibili molto bene in metro, e quindi proprio alla luce della tranvia, insomma, l'osservazione sulla comodità della metro, sulla velocità della metro e sull'efficienza dei trasporti in generale quando si va appunto a visitare qualche città europea è d'obbligo. Quindi fammi capire, il fiorentino che va solo ed esclusivamente in macchina, a meno che non sia interessato ad andare sui mezzi pubblici per lamentarsi poi la sera esatto. A cena, come si approccia a altre città invece dove i mezzi pubblici funzionano? Non è che si trova perso. Dice, no, qui come dice, si fa? Ci fossero i mezzi pubblici in questo modo a Firenze, allora sì che li useremmo. Si sente dire da un fiorentino che sta usando the underground di Londra, no? Per dire, è così. Oppure anche se vai in una città meno conosciuta o meno famosa, ma guarda, anche qui hanno la metro, ma guarda, cioè, solo noi non abbiamo la metro. un po' di tutta Italia, no? Questo discorso, anche il romano dice, ma guarda, questa sì che è una metro che funziona, non come la nostra. Vabbè, ma in quanto a trasporti siamo veramente il fanalino di coda, penso, dell'Europa. Comunque il fiorentino ama viaggiare, ama andare a vedere città d'arte. A parte i mezzi di trasporto, c'è qualche altra cosa che nella tua esperienza di turista, di viaggiatrice, hai sperimentato altrove e hai pensato a ci fosse a Firenze? Il mare. Ah. Vabbè, per esempio io adoro Barcellona, che non è proprio il massimo per efficienza e pulizia, no? Cose di cui ci lamentiamo anche a Firenze, però... quando una città ha il mare è tutta un'altra cosa e si riempiono i polmoni di salmastro e lì sei a posto e sopporti anche magari la coda per salire sull'autobus o qualcosa del genere. E magari tra i mezzi pubblici prendersi anche una barca o un nave taxi o un vaporetto. Ma anche no, dai, quello la gondola a Venezia va bene, per il resto quei traghetti insomma turistici no, non fanno molto per noi. Restiamo alle città d'arte. Firenze è una città d'arte, Firenze è la città d'arte par excellence e ha delle eccellenze, non parlando più in creolo, anche da un punto di vista museale, gli Uffizi soprattutto, Boboli per dire, dei giardini monumentali bellissimi, però anche altre città hanno musei, hanno palazzi, hanno giardini bellissimi e insomma anche più grandi degli Uffizi, parliamo di Louvre o parliamo della National Tate Gallery, se si dice così, insomma, io quello dove ci sono i quadri che sono tutti della regina. Ma il fiorentino che c'ha alle spalle Cupolone del Brunelleschi, che c'ha alle spalle Botticelli, Primavere, Diane, Dee che nascono, insomma, come si raffronta con questi altri elementi d'arte e di conservazione del patrimonio culturale? Li visita, soprattutto quelli inglesi che sono gratis, la Tate, se non mi sbaglio, Gallery se non erro, almeno a Londra sì, i musei sono gratis. È vero, quindi staff. Insomma, perché non andare, ecco, voglio dire. E poi è anche un po' da raccontare, cioè sono stata a Parigi, sono stata al Louvre, cioè non puoi dire sono stata a Parigi, qualcuno ti chiede, ah ma è il Louvre? No, non ci sono stato, no, insomma, non sta bene, come dire non sei salito sulla Torre Eiffel, che... Poi sì, noi abbiamo tantissimo, però vale anche la pena vedere cosa c'è fuori. Per esempio Madrid ha due musei stupendi, il Prado e Reina Sofia, che insomma meritano veramente. E anzi, guarda, ti dirò, forse il fiorentino medio va più a vedere i musei altrove che quelli che ha sotto gli occhi tutti i giorni, sotto casa, perché come già dicevamo una volta, per quelli uno dice vabbè c'è sempre tempo, e allora forse li trascura un po'. I nostri Uffizi meriterebbero visite più approfondite da parte nostra. Usa tra i fiorentini e in particolare tra i simpatizzanti della Fiorentina andare a visitare stadi e musei negli stadi che sì, in Europa no. Ci sono. Come no, il Bernabeu, insomma. Poi ci sono anche sia a Barcellona che a Madrid tour guidati negli stadi, poi insomma la foto è d'obbligo, magari con la sciarpa viola, se no sa che cosa è? Quando giocavamo in Coppa, insomma, un po' di tempo fa. Era bello ritrovarsi nelle città europee prima della partita, per esempio, ora io perché ho questa esperienza indelebile, Praga per la Coppa delle Coppe, era invasa da tifosi viola e la cosa bella fu proprio il pre-partita, girare per il centro storico di Praga, che non è grandissimo, un po' come Firenze, e trovare l'ortolano di San Frediano, trovare il fruttivendolo di Porta Romana, salutarsi tutti con la sciarpa viola al collo, fu un'esperienza bellissima. È bello anche il turismo legato alle partite. Beh, le città che hanno la squadra che li porta in Europa effettivamente danno ai loro cittadini l'opportunità. Come tu, grande tifoso del Montevarchi, puoi sperimentare, insomma, sulla tua pelle. Eh beh, ci siamo fatti delle bellissime gite in Romagna, ma scherzi. E a proposito di Europa o di altre città, ci sono per i fiorentini delle città che sono un classico, che sono trendy da visitare o che sono degli evergreen, quindi di padre in figlio si va a fare le cose scapestrate laggiù? No, più che trendy, ricollegandosi al calcio, c'è Verona, siamo anche gemellate, no? Quella è la Verona, che è una cittadina carina, molto bellina, e assomiglia tantissimo a Firenze. E allora il fiorentino lì si sente un po' a casa, quindi c'è un doppio legame con Verona. Ci sono veramente degli scorci di Verona che ricordano Firenze. E allora, visto che il fiorentino appunto non dimentica la sua origine, lì è contento di vedere un panorama simile. Quindi insomma, i fiorentini, grandi consumatori di pandori, non solo perché sono golosi. Laura, grazie di averci portato in vacanza con te, idealmente nelle città d'arte. Staremo molto attenti a parlare di musei, di averne visti tantissimi, e sottolineeremo il fatto che sono gratis perché non si paga il biglietto, oppure che siamo entrati di sgamo. Probabilmente passeremo benissimo. Grazie. Ciao a tutti, a presto. Olè, alla prossima fiorentinata, direi.